guarda dentro gli occhi miei e ti porterò verso mille favole, io ti stupirò con 100 giochi e fantasie, con la mia gioia e le magie di un posto che non potrai scordare. Questo mare senza amore non può essere limpido, questo sole senza cuore no, non può darti il calore che ho. Prendi la mia mano e poi segui i passi miei, non fermarti, seguimi e ti accoglierò dentro il mio mondo magico, fatto di un cielo azzurrissimo. Gioire senza mai scordare che questo mare senza amore no, non può essere limpido, questo sole senza un cuore no, non può darti il calore.